giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Per rilanciare il commercio di vicinato e destagionalizzare il turismo, la regione si appresta a creare una legge unica del turismo e del commercio che raccoglie l'eredità di 14 leggi e 88 regolamenti. Le linee guida sono state presentate ai portatori di interesse dall'assessore Bini. Previsto un nuovo tariffario regionale per sostenere le case di riposo, fondi anche per coprire le figure del direttore sanitario. Intanto la CGIL chiede una perequazione salariale della sanità che non penalizzi Trieste e Gorizia. Il monumento nazionale della foiba di Basovizza, il treno che da Trieste attraverserà l'Italia fino a Taranto e il magazzino 26 sono alcuni dei luoghi e dei momenti in cui Trieste celebrerà il giorno del ricordo. La presenza della Presidente del Consiglio a Trieste non è ancora stata confermata. L'opposizione abbandona il Consiglio Comunale di Udine prima della votazione del nuovo regolamento dei consigli di quartiere, la cui approvazione è stata data per scontata in un comunicato stampa del PD già prima dell'assemblea. Musica, presentata poco fa nella sede della regione la 18ª edizione di San Vito Jazz. Nel giornale radio i protagonisti del cartellone dell'edizione 2024. Buongiorno da Daniele Lettig e Nada Cioc. La regione, l'avete sentito, si appresta a varare un testo unico per il turismo e il commercio che renda omogenee le attuali 14 leggi e 88 regolamenti. Obiettivo: agevolare la destagionalizzazione del comparto turistico e rilanciare anche il commercio di prossimità. L'assessore Bini ha presentato le linee guida di questo progetto legislativo alle categorie interessate. Le linee guida del disegno di legge sono: spinta alla ripresa del commercio di vicinato e nei centri urbani, rilancio dei mercati, supporto alle start-up del terziario, migliori sinergie con reti di impresa e consorzi turistici, regolazione delle nuove forme di attività e ospitalità, semplificazione e razionalizzazione dei canali contributivi, creazione delle condizioni per la destagionalizzazione del turismo e migliore interazione tra commercio e turismo. Il percorso è iniziato nel 2021 con la legge sviluppo imprese ed è proseguito nel 2023 con l'approvazione della legge sul commercio, che introduceva per esempio semplificazioni nelle comunicazioni di inizio, subentro e cessazione di attività e introduceva nuove forme di vendita online. Il nuovo testo unico dovrebbe essere pronto in prima bozza a novembre, passare in commissione consiliare nella primavera del 2025 per poi approdare in aula del Consiglio regionale a giugno dell'anno prossimo. La Regione ha varato anche la nuova tabella di finanziamenti per le case di riposo che dalla pandemia hanno dovuto introdurre nuove figure professionali obbligatorie, una su tutte il direttore sanitario e il servizio. Una delibera attesa dal mondo delle case di riposo. Alle strutture residenziali sarà infatti riconosciuta la quota di 60 euro lordi l'ora a rimborso per i costi del direttore sanitario, figura divenuta obbligatoria con la pandemia, una spesa che ora potrà contare su una dotazione iniziale di 1,5 milioni di euro grazie all'aumento delle risorse previsto per la salute in legge di stabilità, spiega l'assessore alla salute Riccardo Riccardi. Viene inoltre confermato il rimborso di 12 euro al giorno per posto letto per la spesa di infermieri e fisioterapisti, mentre nella quota forfettaria annuale di 125 euro per ospite viene compresa anche quella per il coordinatore infermieristico. Il termine per il reclutamento del direttore sanitario slitta intanto di un anno per favorire un suo graduale inserimento anche a fronte di un quadro cambiato con la fine dell'emergenza. Poche comunque le case di riposo che finora ne hanno assunto uno, per lo più strutture con RSA interne. La gran parte aspettava una copertura finanziaria per un costo altrimenti insostenibile dai bilanci, osserva il coordinatore delle 35 case di riposo di Federsanità in Friuli Venezia Giulia, Giovanni Di Prima, che tuttavia parla di importante passo avanti. Commenti positivi anche dal presidente delle strutture UNEBA del privato sociale, Matteo Sabini. La delibera si inserisce in un quadro di riordino complessivo del sistema della residenzialità e del suo finanziamento, auspicato dagli stessi gestori, afferma Sabini, che richiama però l'attenzione sull'assistenza medica di base dentro le residenze. Per Sabini, il direttore sanitario qualifica ma non sostituisce la gestione della parte clinica in mano ai medici di medicina generale, un sistema che oggi presenta note criticità per la carenza di professionisti con conseguenti pesanti ricadute sui pronto soccorso e sulle guardie mediche. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. La perequazione salariale tra i lavoratori e le lavoratrici del servizio sanitario regionale è un obiettivo condivisibile se perseguito verso l'alto, puntando a un innalzamento complessivo del livello delle retribuzioni e della qualità del lavoro in sanità. L'esatto contrario di quanto ha fatto l'assessore Riccardi, con una distribuzione delle risorse aggiuntive regionali che ha evidentemente colpito i lavoratori dell'area giuliana e isontina. E quanto sostiene il segretario generale della CGIL Friuli Venezia Giulia, Michele Piga, assieme a Orietta Olivo, numero uno della FPCGL. Regionale. Per invertire la rotta, sostiene la CGIL, la priorità è arginare la fuga del personale verso il privato e tornare a rendere attrattive le professioni mediche e sanitarie. La scelta fatta sulle RAR è invece quella opposta, con una distribuzione delle risorse calate dall'alto e che curiosamente va a penalizzare proprio le aree che storicamente hanno investito di più verso quella sanità territoriale che dovrebbe rappresentare il modello di riferimento. Quasi certa la presenza della Presidente del Consiglio Meloni a Trieste in occasione della giornata del ricordo. Non è certa però la sua partecipazione alla commemorazione al Monumento Nazionale della Foiba di Basovizza. Il programma degli eventi dedicati alle persecuzioni titine e all'esodo è stato presentato dal Comune di Trieste questa mattina. La Foiba di Basovizza, il magazzino 26, il treno che da Trieste attraverserà l'Italia fino a Taranto. Sono i luoghi del ricordo, la giornata istituita nel 2004 per commemorare ma anche ripensare e approfondire storicamente la tragedia delle foibe e dell'esodo istriano, fiumano e dalmata. Tre luoghi ma anche altri in un complesso di iniziative, conferenze e manifestazioni in parte già in corso e che proseguiranno per tutta la settimana successiva al 10 febbraio, e sulla giornata del 10 resta l'incognita della presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. C'è chi la dà per quasi certa, chi per probabile, chi si limita ad augurarselo, come l'assessore alla cultura Giorgio Rossi, che in mattinata, assieme all'avvocato Paolo Sardo Salbertini, presidente della Lega Nazionale, ha presentato il calendario predisposto dal Comune. Una giornata che si inserisce nel quadro del percorso di riconciliazione, di pacificazione che la città sta vivendo da qualche decennio, ha detto Rossi, una tragedia che non ha senso che divida italiani, sloveni e croati, perché le foibe inghiottirono appunto italiani, sloveni e croati, ha rimarcato Sardo Salbertini. Erano anticomunisti e le foibe furono uno strumento di terrore utile alla realizzazione della rivoluzione comunista in Jugoslavia, ha spiegato. Molto resta da analizzare, studiare e divulgare su quella che Sardo Salbertini ha definito la grande menzogna, che a lungo ha impedito agli italiani di conoscere il contesto, i dettagli, i motivi della più grande tragedia italiana. Il programma: il 10 febbraio alle 10.30 la cerimonia a Basovizza, un'ora prima a Monrupino, il 10 e l'11 l'apertura straordinaria del Museo di Padriciano. Al magazzino 26, che ospita il materiale del magazzino 18, si aprirà una settimana di visite guidate. Trieste, Antonio Cajazza, TGR Friuli Venezia Giulia. Il sottosegretario agli esteri della Repubblica Slovena Marco Štucin, incontrando a Roma il suo omologo italiano Edmondo Cirelli, ha auspicato che le celebrazioni per il giorno del ricordo passino nel segno della riconciliazione e dei buoni rapporti di amicizia tra i due stati. Ha anche consegnato al suo omologo la relazione della commissione mista storico-culturale italo-slovena, alla cui stesura hanno partecipato per la parte italiana Sergio Bartole, Giorgio Conetti, Marina Cattaruzza, Angelo Ara, Paolo Pagnini, Fulvio Salimbeni, Fulvio Tomizza, Raul Pupo e Lucio Tot. I due sottosegretari hanno quindi convenuto sull'importanza anche simbolica della collaborazione tra le due Gorizie nella realizzazione della capitale europea della cultura. La scuola Caprin di Trieste ha vinto la menzione d'onore al concorso per le scuole sul 10 febbraio, giorno del ricordo, e nei prossimi giorni sarà premiata al Quirinale dal Presidente della Repubblica Mattarella. Lo ha annunciato il dirigente scolastico Mauro Dell'Ore. Siamo fieri e orgogliosi di questo premio, dice Dell'Ore, perché gli studenti hanno fatto un ottimo lavoro, utile per far conoscere la storia delle nostre terre. È stata un'attività fatta letteralmente sul campo, proprio qui a Valmaura, dove fu allestito alla Risiera uno dei primi campi d'accoglienza per gli esuli istriani e dove succedeva successivamente si sono stabilite diverse famiglie sul territorio. Il contenuto del lavoro è ancora riservato e sarà reso noto in occasione della premiazione. Non si placa la polemica in Consiglio Comunale a Udine dopo il caso del mancato conferimento della cittadinanza onoraria al portiere del Milan. La polemica si è infiammata sul nuovo regolamento dei consigli di quartiere che ieri sera ha portato l'opposizione ad abbandonare l'aula di Sala Iace. Casus belli un comunicato stampa del Partito Democratico che avrebbe dato come cosa fatta il nuovo regolamento senza attendere il via libera della Sise di Palazzo Daronco. Dai banchi dell'opposizione si è parlato di mancanza di rispetto nei confronti di tutti i consiglieri comunali. La maggioranza però provveduta ad approvare il nuovo testo che in buona sostanza al posto dei politici nei comitati di quartiere tende a coinvolgere le associazioni e i comitati che vivono e operano nei quartieri cittadini. L'abbandono dei consiglieri della minoranza ha rimandato la discussione su una mozione di intenti sul caso Magnan, anche se in settimana erano proseguiti i contatti per arrivare ad un documento condiviso, mentre nel question time l'opposizione era partita all'attacco sulla gestione del verde e i tagli di alcuni alberi in città. A Pordenone sono iniziati i lavori in via Revedole per la realizzazione della nuova rete fognaria che collegherà il quartiere di Torre al depuratore cittadino. La strada sarà chiusa al traffico dal civico 14 in direzione Pontebbana, indicativamente fino al 4 maggio. I lavori impegneranno progressivamente brevi tratti stradali e il transito su via Revedole sarà autorizzato in entrata esclusivamente per residenti, frontisti e per attività di carico e scarico. Essendo la via interrotta dai lavori, per uscire si dovrà necessariamente fare inversione di marcia. Tutti gli altri veicoli dovranno deviare in viale Venezia per chi proviene da nord e in viale Martelli per chi proviene da sud. 12:41, il meteo, il cielo è coperto su tutta la regione, le temperature registrate poco fa, Trieste 9,5 gradi, Gorizia e Udine 10,5 gradi, a Pordenone 10 gradi, a Tolmezzo e Tarvisio 8,5 gradi, Forni di Sopra 5 gradi, Piancavallo 2,5 gradi, su Lussari e sullo Zoncolan 3 gradi, a Grado 9, a Lignano 7,5 gradi. Queste le previsioni, sulle zone montane più interne, specie in Carnia, Sappada, nel Tarvisiano sarà più soleggiato con cielo poco nuvoloso, sulle Prealpi variabile con maggiore nuvolosità verso la pianura. Su pianura e costa presenza di nubi basse con cielo coperto e foschie e dal pomeriggio saranno possibili deboli piogge specialmente su Isontino, Carso e Trieste. Per domani sulle zone montane più interne specialmente in Carnia, a Sappada e nel Tarvisiano cielo variabile, sulle Prealpi nuvoloso. Su pianura e costa cielo coperto con foschie e saranno possibili deboli piogge specie sulla fascia orientale. Possibile nevischio sulle Prealpi Giulie oltre i 1200-1400 metri di quota circa. In occasione della giornata per un uso più sicuro e consapevole di internet, la Questura di Trieste ha organizzato un incontro con i ragazzi delle scuole. Sentiamo. Non solo cyberbullismo, in rete i pericoli, soprattutto per gli adolescenti, sono tanti: sfruttamento sessuale, pedopornografia online, adescamento, blog insidiosi su anoressia e bulimia, social challenge, sfide e prove di coraggio. Proprio per sensibilizzare i ragazzi su ogni forma di violenza in rete, nell'ambito del Safer Internet Day, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale del Friuli Venezia Giulia e l'Istituto Comprensivo Campi Elisi di Trieste hanno organizzato un dibattito con studenti di alcune scuole collegati in videoconferenze, evento che ha visto coinvolto l'ufficio scolastico regionale. Ma si è parlato anche della promozione dell'uso sicuro, positivo e attivo della tecnologia digitale e di internet. È partito un corso accreditato per pediatri di famiglia, psicologi, medici di base, neuropsichiatri, grazie a custodi digitali, un progetto in collaborazione con i Burlo. C'è poi il patto digitale tra famiglie, con esperti che forniscono consigli e indicazioni a famiglie sempre più confuse, che devono costantemente tenersi aggiornate su nuove app e che, sottolineano gli ispettori della Polizia Postale, devono seguire costantemente i propri figli, senza mai abbassare la guardia. Trieste, Elisabetta Zaccolo, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ha per tema proprio il cyberbullismo e gli abusi online lo spettacolo dal titolo Ma io scherzavo, di e con Max Bazzana, che va in scena al Teatro Miela di Trieste alle 20:30. Il fascino dei mosaici non ha tempo, anche perché l'arte musiva ha saputo adattarsi alle esigenze estetiche della contemporaneità, in particolar modo alla Scuola dei Mosaicisti di Spilimbergo, che ha aperto le iscrizioni per il nuovo anno scolastico. Sono aperte da questa settimana le iscrizioni alla scuola Mosaicisti del Friuli per l'anno formativo 2024-2025. La realtà, con sede a Spilimbergo e che pochi giorni fa ha compiuto 102 anni, è punto di riferimento internazionale per la formazione di professionisti e per la divulgazione dell'arte del mosaico. Importa in regione studenti da tutto il mondo ed esporta opere d'arte nei luoghi più significativi, da New York a Pechino. Stefano Lovison, presidente Scuola Mosaicisti del Friuli. I risultati dei nostri maestri mosaicisti che si sono qualificati qui alla scuola dopo 3 anni di studio, grazie un po' all'approfondimento delle materie sia laboratoriali che teoriche, grazie a una didattica innovativa, sempre attenta a quelle che sono le novità nel campo artistico, nel campo delle tecnologie, nel campo dei nuovi materiali, danno delle percentuali di occupazione sempre elevatissime, ormai quasi del 100%. Per iscriversi è necessario non avere superato i 40 anni di età ed essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, del diploma di laurea o di una qualifica professionale. Il piano di studi per diventare maestro mosaicista ha durata triennale e si struttura in lezioni teoriche e pratiche. Queste ultime in particolare caratterizzano l'esperienza di apprendimento. Il termine ultimo per l'iscrizione è fissato al 30 giugno. I posti disponibili sono limitati e saranno ammessi non più di 40 allievi. Spilimbergo, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Donati 124 innesti ossei al centro trapianti dal Policlinico Città di Udine. Si tratta di un numero molto elevato di donazioni fondamentali per la chirurgia ortopedica, vertebrale, odontoiatrica e maxillofacciale. La donazione ossea proviene da quanti si sottopongono agli interventi di protesi e non ha alcuna differenza di procedura o conseguenza per il paziente, che infatti nella maggior parte dei casi dà il proprio consenso alla donazione al momento dell'anamnesi preoperatoria con il medico anestesista. Dopo l'estrazione, la donazione ossea viene inviata alla banca dei tessuti di Treviso, che fa da centro di raccolta per il Friuli Venezia Giulia, Veneto, province autonome di Trento e per le Marche, eseguendo le analisi e i test previsti per l'idoneità alla donazione. La parte ossea asportata, solitamente di un soggetto sano sotto i 70 anni, è preziosa e fondamentale per realizzare innesti di osso in chirurgia ed è indispensabile nella chirurgia dei tumori ossei. Verso una nuova fase dell'Unione Europea è il titolo del quaderno numero 8 del Centro Studi di Politica Internazionale, CESPI, che verrà presentato oggi pomeriggio alle 17.30 al Circolo della Stampa di Trieste, in un evento organizzato dall'Associazione Dialoghi Europei. Interverranno il presidente e direttore del CESPI, Daniele Frigeri, il presidente di Dialoghi Europei, Giorgio Perini, e il consigliere dell'Associazione, Paolo Gozzi, a cui abbiamo chiesto qual è la nuova fase dell'UE che si sta aprendo e di cui parla il quaderno. Negli ultimi anni c'è stato un susseguirsi di situazioni di crisi molto diverse, da quella economica alla pandemia, alla guerra in Ucraina, fino alla destabilizzazione totale del Medio Oriente attuale. Queste crisi hanno quasi obbligato l'Unione Europea ad un protagonismo che non si pensava fosse nelle sue corde. La risposta unitaria al Covid, la fermezza nel difendere Kiev, fino ad abbozzare legislazioni sull'intelligenza artificiale, la transizione ecologica. Questo ha dimostrato l'importanza di avere un'Unione Europea, ma ha anche evidenziato la necessità di adeguare i meccanismi di funzionamento. Per questo serve ora una nuova fase. Ci può dire alcuni dei contributi che contiene questo nuovo quaderno? Il quaderno è stato lanciato da un intervento di Giorgio Benigni, che ha individuato alcuni scenari in merito ai quali il CESPI, il Centro Studi di Politica Internazionale, ha raccolto le riflessioni di analisti, di ricercatori e di persone delle istituzioni anche. Tra i contributi ricordo al volo quelli di Pier Virgilio D'Astoli, che è il presidente del Movimento Europeo, l'introduzione di Romano Prodi. Quale ruolo può avere il Friuli Venezia Giulia, la macroregione di cui il Friuli Venezia Giulia fa parte, in questa nuova fase dell'Unione Europea? Si è parlato molte volte sul ruolo internazionale, potenziale ruolo internazionale della regione. Molte volte si è parlato teoricamente di questo, senza la capacità di indicare in cosa concretamente potrebbe consistere questo ruolo. Se dalla presentazione del quaderno del CESPI venisse l'impulso a mettere sul piatto iniziative concrete, beh, il nostro piccolo centro studi dialoghi europei che ha organizzato questo evento avrebbe conseguito un grande risultato. È stato presentato poco fa a Udine, nella sede della regione, il cartellone di San Vito Jazz, la rassegna musicale che prenderà il via tra pochi giorni. In questa intervista il direttore artistico Flavio Massarutto ci illustra il programma della 18ª edizione. Diventiamo maggiorenni e perciò 4 appuntamenti quest'anno in luogo dei 3 abituali più un incontro. L'apertura è riservata a un progetto speciale, una commissione della rassegna, e la commissione è stata affidata a Francesco Berzatti, sassofonista friulano noto a livello internazionale, che per la prima volta nella sua carriera si misura con un doppio quartetto, quartetto jazz più quartetto d'archi. Nella settimana dell'8 marzo, la festa internazionale della donna, 2 incontri di approfondimento, di riflessione. Il primo, la presentazione del libro della biografia su Abby Lincoln, a cura di Luigi Nori, l'autore. Uno spettacolo concerto con Graziella Vendramin e il suo gruppo e Valerio Marchi, e su Nina Simone, per cui due figure di due cantanti afroamericane, donne, molto importanti, molto impegnate anche sulle tematiche della liberazione della donna. Poi ci sarà il 16 invece un concerto Soul, Rhythm and Blues, una grande festa con Sara Zaccarelli e il suo gruppo, e poi il grande finale, altro concerto imperdibile, Amaro Freitas, questo giovane talento del pianoforte, viene dal Brasile, e l'occasione per vedere il jazz dal punto di vista del sud del mondo. Che bilancio possiamo fare delle prime 17 edizioni e quali sono le prospettive che vi attendete per questo che va ad iniziare? Siamo partiti piano piano, piccoli passi, fino a registrare praticamente il tutto esaurito ad ogni concerto. Ripartiamo riprendendo un po' anche quelle che erano un po' le caratteristiche iniziali del festival, cioè quello di, oltre a presentare progetti già esistenti, anche cercare di stimolare i musicisti, dargli la possibilità di comporre musica nuova. Dall'altro lato mantenere sempre un occhio di riguardo alle proposte del nostro territorio, che tra parentesi il Friuli Venezia Giulia, non vestuto, è una delle terre d'eccellenza del jazz italiano, e uno sguardo dall'altra parte invece quello che si muove a livello internazionale, cercando di portare artisti che magari si muovono fuori dai cartelloni più blasonati. Ancora allo sport con l'atletica, Udin Jump, la manifestazione internazionale ideata nel 2018 dal campione Alessandro Talotti, apre alle 17.30 alle porte del Palazzo dello Sport Ovidio Bernes. Una competizione internazionale che vede in gara i migliori saltatori in alto del mondo e che è diventato un appuntamento di punta del calendario dell'atletica leggera. I principali favoriti della gara maschile sono l'ucraino Andriy Prochenko e il cubano Luis Enrique Zayas, tutti e due capaci di superare quota 2.40, mentre l'onore azzurro sarà difeso da Manuel Lando. Per quanto riguarda il panorama giovanile, i riflettori saranno puntati sull'ispano-cubano Xavier Sotomayor Jaxier Sotomayor, erede del più grande saltatore di tutti i tempi, il recordman mondiale Javier Sotomayor. La vedette della gara femminile è invece la lituana Airine Palsite, vincitrice di un'Universiade e di un campionato europeo indoor, con un primato personale di 2.01 al coperto. E questo è tutto per questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Daniele Lettige e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Carlo Morello e Mauro Cumina, collaborato in redazione Samantha Gon. Da tutti noi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.